Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Il caffè della domenica di Maria Latella. Eccoci, buon caffè della domenica, come state? Lo state prendendo insieme a me? Spero proprio di sì. Alle 10 è il momento giusto e noi lo prendiamo questa domenica con un maestro del cinema italiano, con Pupi Avati, che ha, e mi fa piacere dirlo qui in inizio di trasmissione, appena ricevuto il premio Bresson che gli è stato consegnato dall'ente dello spettacolo al Lido di Venezia. Buona domenica, buon caffè, Pupi Avati. Grazie, sono in realtà dal terzo, per dire la verità. Al terzo. Noi appartenenti anagraficamente a questa età non ci vediamo molto presto. E quindi se ne prendono tanti. C'è un film che è in fase di montaggio e, sì, e del quale mi piacerebbe sapere qualcosa di più, perché le nostre ascoltatrici sono avide consumatrici di cinema, come male, capita molto spesso loro, alle donne. Siamo rimaste noi donne. Ne abbiamo bisogno di avide consumatrici, ma questo veramente è un film totalmente femminile, nel senso che è un film estremamente, io ho ancora un'idea della donna Maria probabilmente un po' superata, anacronistica, perché penso che la donna debba avere una sua porzione di romanticismo superiore, una sua quantità, una sua dose, una sua preparazione al romanticismo, predisposizione al romanticismo che noi maschietti in qualche modo abbiamo avuto, abbiamo rimosso. E quindi è un film sfrontatamente sentimentale, nel senso che racconta la storia di un matrimonio di 65 anni in cui improvvisamente e ingiustamente, secondo me, poi ti dirò perché ingiustamente, viene a mancare lei, la moglie, e quindi questo uomo si trova totalmente anziano, novantenne, si trova totalmente impreparato e solo ad affrontare la vita. La figlia fortunatamente, intelligentemente, acutamente, per non abbandonarlo a se stesso, gli suggerisce di scrivere un romanzo, di raccontare la storia della sua relazione con questa donna, e allora coinvolge un ghostwriter, quindi un giovane scrittore, ad andare in questo piccolo centro dove vive questo anziano farmacista, Rotterdam si chiama questo paese, ecco, a raccogliere i suoi aneddoti, la narrazione di com'è andata la sua vicenda sentimentale, affettiva nell'arco di 65 anni. Quindi parliamo di un matrimonio veramente fuori dal mondo, perché matrimoni di 65 anni, come ben sai, sono ormai molto rari. Sì, sono rari, sono molto rari, e quindi è una storia d'amore d'altri tempi che ci fa anche un po' invidia. L'autore del libro è Giuseppe Sgarbi, che è appunto il padre dei fratelli Sgarbi. Esatto. E nel ruolo drammatico al quale non siamo abituati a, diciamo, a vederlo, c'è Renato Pozzetto. Ed è lo scandalo del film, dell'operazione, alla quale io sono aduso, cioè non è una novità per me andare a pescare, a raccogliere. Per me mio fratello Antonio, insomma, nella nostra filmografia, se la vai a ripercorrere, ti renderai conto che non è la prima volta che, insomma, sfrontatamente... Beh, Abbatantuono è stato bravissimo come attore drammatico. Abbatantuono fu un caso, ma non solo lui. Comunque gli attori comici hanno dentro di loro, senza saperlo, nella loro cassetta degli attrezzi, hanno degli strumenti, degli attrezzi che non sanno di avere, che non hanno mai utilizzato, che sono proprio quelli della drammaticità, della malinconia, della tenerezza, della misura, della sottomisura. Ecco, e dare modo a Renato Fossetto di scoprire, ottantenne, perché Renato ha compiuto, non è un segreto, ha compiuto 2 mesi fa 80 anni, quindi è un attore in età, ecco, che non lavorava tra l'altro da un po' di anni, scoprire di avere questa possibilità di raccontare l'essere umano in un momento di estrema difficoltà, quindi un ruolo estremamente drammatico, serio. Gli americani le definiscono underacting, da sottorecitazione, quindi tutt'altra cosa rispetto ai film comici brillanti per i quali negli anni 80 e 90 Fossetto fu una star assoluta del cinema italiano. Ecco, dargli il modo di scoprire che aveva inespressa questa parte di sé è stato veramente, io mi auguro con un risultato assolutamente positivo e sorprendente, me lo auguro perché sto ancora montando i film, quindi in realtà il risultato non lo conosco ancora, però confido nel fatto che Renato veramente ci sia riuscito. È un grande professionista. Una delle ragioni per cui mi piace che il Caffè della Domenica, questa domenica, abbia Pupi Avati con noi, è che io ho una grande curiosità di come Pupi Avati potrebbe raccontare la storia di questa Italia violenta di queste settimane. Dietro ogni evento che ci stringe il cuore, i fratelli Gabriele e Marco Bianchi arrestati insieme a Francesco Belleggia, Mario Pincarelli, a Colleferro, o ancora la storia di Bologna con la ragazzina che dice ero troppo fatta di cocaina per dire di no ai maschi adulti che approfittavano di me in sequenza. Questa Italia di ignoranza, violenza, cocaina, orrenda, spaventevole, in cui il male veramente riemerge nel suo nitore tremendo, veramente devastante. Io ho fatto un film di recente che si chiamava Il Signor Diavolo, in cui veramente ho ricandidato il male come problema assoluto. Il male esiste, cioè anche io sono un cattolico praticante, voglio ostinatamente esserlo, però anche nelle stesse chiese non si parla più di male, non si parla più di diavolo, non si parla più. Noi siamo stati educati a saper distinguere con una nettezza assoluta fra il bene e il male. Cioè adesso c'è una zona assolutamente ambigua, totalmente grigia, nella quale tutto è permesso. Io non so da quali famiglie provengono questi ragazzi, perché non possono essere così, il risultato del nulla. Sono sicuramente il risultato di una qualche sollecitazione, di un qualche esempio. E io insisto ancora, tu un po' mi conosci perché lo so e sono lusingato dal fatto che tu mi conosca, ma e sai un po' della mia filmografia, e tu lo sai quanto importanza ho dato alla famiglia. La famiglia è veramente la fucina, è il luogo dove si formano gli esseri umani, e io temo che negli ultimi decenni questo luogo dove si formano gli esseri umani sia stato abbandonato molto a se stesso, attraverso una cattiva interpretazione dei ruoli, delle responsabilità genitoriali che sono assolutamente e poi c'è anche certo e poi c'è anche questa sorta di questa complicità che fa sì che chiunque abbia un po' di soldi venga guardata con indulgenza qualsiasi cosa faccia. Torno all'esempio, al caso di Bologna. Lì erano dei quarantenni imprenditori, professionisti, legati peraltro dal consumo eccessivo di cocaina. Io penso che uno dei, come dire, degli elementi, il fil rouge di tutti i fatti di cronaca, ne ha scritto anche Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, il fil rouge sia l'uso della droga, che ovviamente scatena degli effetti e dei comportamenti che sono fuori controllo. Permettimi se ti correggo, Non esiste l'uso eccessivo della cocaina o della droga, esiste l'uso della droga comunque, non è sempre eccessivo, è sempre anche nella minima dose, è sempre eccessivo. Io credo che veramente, mi ricordo una bellissima trasmissione che tu facesti, ti telefonai pure per allegrarmi, non so se te lo ricordi. Sì, certo, l'anno scorso 24 mattino, sì. 24 mattino a 24 mattino l'anno scorso, sì. La necessità di chiamarti per allegrarmi, perché avevi detto una cosa veramente, veramente molto coraggiosa, molto, molto fuori dal coro. Ecco, bisogna avere il coraggio di dire che la droga è devastante, il problema di questi tempi. La droga devasta le famiglie, devasta gli esseri umani, li muta, li cambia, li deresponsabilizza, fa sì che il male non avvertano il male che compiano. E quindi dovrebbe essere il grande tema. E noi vediamo sotto casa, non sotto casa mia, perché abito in una zona un privilegiato, ma sotto questo integrato totale di questa città nella quale credo che anche tu viva, o tu vivi a Milano, sì. Non lo so. No, vivo a Roma, Sto parlando di Roma, è tremenda questa cosa, che sia... Purtroppo vale per Milano, vale per Bologna e abbiamo visto vale anche per la provincia Colleferro. La proposta di Severgnini, che ha fatto, ha suscitato una reazione indignata, è: dopo la terza segnalazione del soggetto come assuntore di cocaina, che si renda pubblico il nome, perché tutti dobbiamo sapere di avere a che fare con una persona che può essere... pericolosa. Ma ovviamente molti hanno reagito dicendo: beh, ma questo è la gogna, e mettere alla berlina un uso personale. Non è stata una proposta che ha fatto molta strada, insomma. Ma non lo farà mai, perché chi conta è chi ha il modo di esprimersi pubblicamente, ahimè, molto spesso ha a che fare con questo problema. E su questa nota io vorrei che i nostri ascoltatori del Caffè della Domenica, bevendosi un caffè, facessero una riflessione. Grazie. Mi piace molto che tu abbia dirottato questa nostra conversazione dal tema cinematografico che mi interessava relativamente, del quale parlo tutti i giorni, su questo tema invece veramente che è drammaticissimo, che è il tema dei nostri giorni, sulla droga. Brava Maria. Chissà che questi eventi che si susseguono ormai quotidianamente, che dovrebbero essere al primo posto del pensiero di tutti noi, anche di noi giornalisti, chissà che anche tu come regista non voglia fare una riflessione. La lascio lì, questo suggerimento mi permetto di lasciarlo lì insieme a una zolletta di zucchero nel nostro caffè. Buona domenica. Grazie. Pupi Avati. A te Maria, ciao.